America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York. Mario Platero. Ferguson, due poliziotti feriti ieri notte da colpi di pistola durante una dimostrazione per le dimissioni del capo della polizia Jackson. Devo dire, un'assurdità, soprattutto dopo la ricorrenza di Selma, di cui vi ho parlato appena 3 giorni fa. Vedremo se si troverà un colpevole, vedremo gli sviluppi della cronaca, ma la violenza e le reazioni alla violenza, anche a quelle dell'ISIS, restano temi forti per l'America, in modi molto diversi. Sentiamo. Let me ask you a question, Chris. Would you be surprised if I told you that the Navy has credited you with over 160 kills? Beh, una scena di American Sniper, Chris Kyle, il protagonista di questo film, un eroe americano che è tornato ben 4 volte in Iraq. Non aveva bisogno di tornare in Iraq, dopo 2 missioni soprattutto poteva restare a casa con la moglie, con un bambino appena nato, eppure doveva tornare per aiutare i suoi commilitoni, per aiutare i suoi compagni, per combattere il nemico, per vendicarsi soprattutto di un cecchino che aveva ucciso alcuni dei suoi amici più cari. Ecco, questo film in qualche modo diventa emblematico, un film di cui abbiamo parlato, candidato all'Oscar, regia di Clint Eastwood, è stato tra l'altro nelle cronache perché poi il povero Chris Kyle è stato ucciso per ironia della sorte da un altro veterano in un poligono di tiro, c'è stato un processo, questo veterano che l'ha ucciso è stato condannato all'ergastolo. Perché questa storia diventa emblematica? Perché il bisogno, la necessità di tornare al fronte per chiudere una partita, si sta registrando in questi giorni negli Stati Uniti. Proprio ieri il New York Times dava notizia di un gruppo di veterani che erano rientrati, sono stati addirittura congedati dall'esercito, alcuni addirittura nel 2011, eppure stanno rientrando in Iraq per combattere ISIS. Sentiamo. My name is Patrick Maxwell. In December I traveled to Sulaymaniyah, Kurdistan, to join the Kurdish Peshmerga and fight against ISIS. Ecco, avete ascoltato questa dichiarazione di Patrick Maxwell, 29 anni, un texano, che dice: a dicembre sono partito per arruolarmi come volontario con le forze di sicurezza curde, con i Peshmerga. Non sono più nei Marines perché ero stato congedato, ma resto pur sempre un soldato. Maxwell spiega che quando ha visto in televisione la decapitazione di suoi connazionali, di americani, per mano dei combattenti dell'ISIS, a quel punto ha sentito questo bisogno di tornare, di combattere, di vendicare non soltanto gli americani uccisi, ma di contribuire in qualche modo anche a una difesa preventiva del suo paese. Ecco, la situazione non è isolata. Un regista americano che si chiama Matthew Van Dyke è andato con questi soldati, con questi volontari, per registrare e documentare la loro azione. Dillon Hilley, per esempio, è un altro di questi soldati, una 30 anni, un canadese, anche lui ha deciso di tornare. Ci sono immagini di guerra piuttosto devastanti. La guerra domina, c'è una situazione politica anche complicata. Perché? Perché non è chiaro che questi soldati americani possano poi andare a combattere come volontari per i curdi. Perché? Perché così come sono illegali gli americani che si uniscono all'ISIS, potrebbe essere illegale per gli americani unirsi ai curdi perché molte fazioni curde sono denominate come gruppo terroristico e dunque questi americani non potrebbero combattere con loro. Insomma, si pone ovviamente un problema, ma il dato di fondo è che, come dire, agli americani cominciano a prudere le mani. Sentiamo il segretario di Stato John Kerry. They would welcome our bombing additionally ISIS actually. They want us to destroy ISIS. They want to destroy ISIS. ISIS is a threat to them. Ecco, in questo contesto in cui c'è un'escalation militare chiara, John Kerry, il segretario di Stato, ha chiesto ai membri del Congresso di accelerare l'approvazione per autorizzare il presidente Barack Obama ad avere i poteri di guerra, pieni poteri di guerra, dunque per usare la forza militare contro ISIS. Siamo in un momento cruciale, ha detto Kerry. La nostra nazione è più forte quando agiamo insieme. Non possiamo consentire che questi assassini e criminali vadano a raggiungere i loro obiettivi. Questo include uccisioni, sottomissioni di tutti coloro che si oppongono alla loro conquista. Kerry ha chiesto ai membri del Congresso di superare le divisioni e parlare con una singola voce. Ecco, Barack Obama ha già indirettamente questi poteri di guerra perché sta già conducendo delle operazioni militari, però il presidente vuole che ci sia questo endorsement, questo appoggio da parte del Congresso. Perché il momento è particolarmente delicato? Perché da una parte si registra una come un'implosione interna l'ISIS. È un problema per l'ISIS perché si stanno registrando dei fenomeni di defezione all'interno dell'ISIS, si stanno registrando dei fenomeni di corruzione. Alcuni dei comandanti approfittano degli scambi, per esempio del greggio che riescono a ottenere dai pozzi del petrolio, per intascarsi dei quattrini. C'è anche una divisione fra i combattenti stranieri, quelli che arrivano dai paesi europei, e i combattenti locali. Non si sopportano, sembra, anche perché i combattenti stranieri tendono a restare nelle città, a vivere una vita un po' più romantica, starsene nei caffè e a non andare al fronte a combattere. Dunque è un momento di particolare vulnerabilità per l'ISIS ed è un momento in cui da parte irachena ci sono delle operazioni militari, per esempio per riconquistare la città di Tikrit. Ecco, quella di Tikrit è una battaglia durissima, gli iracheni hanno mobilitato circa 4.000 soldati regolari, 4.000 esponenti della milizia per riprendere questa città simbolo, la città di Saddam Hussein, dai combattenti islamici. Hanno fatto l'ingresso in città, hanno pagato un prezzo durissimo. Awad Sami al-Gawa, che era il capo di Awakening Brigades, è stato ucciso. The Awakening Brigades sono le brigate del risveglio, sono delle brigate di volontari, diciamo irregolari, che si sono unite alle forze regolari per cercare di riconquistare il territorio perduto nei confronti di questi terroristi estremisti islamici. È morto, è stato ucciso in questa battaglia anche il brigadiere generale Wadman Mahmoud al-Azawi, un brigadiere generale dell'esercito iracheno. Questo il fronte nel Medio Oriente. Un fronte simile c'è in Libia. Ho dato anticipazione del viaggio del presidente del Consiglio Matteo Renzi a Washington. Ci sarà un incontro subito dopo Pasqua, nella settimana successiva alla Pasqua, di Matteo Renzi con Barack Obama, il suo primo viaggio a Washington come Presidente del Consiglio, il suo primo incontro con Obama alla Casa Bianca, un viaggio dunque molto importante. Si parlerà anche in quel caso non soltanto di ISIS in generale, non soltanto di Ucraina, ma si parlerà anche di Libia. Su questo tema di cui abbiamo parlato, io credo che l'Italia possa svolgere un ruolo non tanto militare quanto di mediazione per cercare di comporre le differenze non soltanto fra le due fazioni libiche, ma anche fra i paesi che in questo momento litigano fra loro: Arabia Saudita, Egitto da una parte, Turchia e Qatar dall'altra, l'Algeria anch'essa contraria alle azioni egiziane, perché ci sia una visione comune per riportare anche la stabilità in Libia. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili e resta pur sempre la nuova frontiera. Potete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, abbiamo parlato di guerra, 30 Seconds to Mars, un gruppo che ha dedicato una canzone alla guerra. This is war, questa è la guerra. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.